Ha chiesto la parola Marco Pannella per massimo 5 minuti. Sì, io nel pomeriggio interverrò di nuovo lungamente. No, ma adesso ho solo il timore di dimenticare le riflessioni, o anzi i riflessi che questo straordinario intervento ha suscitato in me. Quindi c'è anche la possibilità che io abbia equivocato in qualcosa. Ma tanto per valorizzare, se vuoi, attraverso un'attenzione, soprattutto essendo assente Francesco Puglia, voglio evitare questo pericolo, dare un contributo. Anzi, ho sicuramente compreso parzialmente o male il ragionamento della seconda parte e di questa finale, di quella immediatamente precedente alle frasi finali, e che è quello che chiamerei la scoperta da parte tua dell'etica del sacrificio, che è la più distante dalla posizione della non violenza quale la concepisco e credo cerco di praticarla. E mi sono staccato dal consenso con il quale ti seguivo, ma non dall'interesse, quando tu hai cominciato a parlare della gente. Dice, poi a un certo punto la gente si assuefa e quindi, e via dicendo. E lì appunto non sono d'accordo, perché quando facciamo ricorso non alle nostre opinioni, ma alle opinioni della gente, rarissimamente si azzecca, perché diventa un'astrazione e diventa invece uno specchio di noi, e la gente non c'entra per nulla. Quando tu dici, siccome c'è il rischio che il coniglio bianco, se continua ad essere tale, non è più coniglio bianco, e anzi può rappresentare l'opposto di quello che ha rappresentato il coniglio bianco, quindi aboliamo il coniglio, che siamo noi. Infatti tu dici, sacrifichiamoci della nostra identità, non nella nostra immagine. E dici, la gente comincia a pensare che è abilità, è tecnica. Ma voglio dire, se per abilità si intende furbizia, ovviamente è un guaio. Ci sarà sempre qualcuno anche che penserà agli altri in funzione dei propri fondamentali. Se è un furbo, qualcuno che pratica la furbizia crede di riconoscersi negli altri. Ma nel rigore del vissuto, che è sempre, per fortuna, imperfetto, cioè perfettibile, occorre tenere presente, invece c'è un'altra cosa che si crea nella durata, si chiama sapienza, si chiama conoscenza che viene riconosciuta e che in qualche modo si iscrive, tra virgolette, antropologicamente, perché questo è il problema, non della gente, nel corso di 2-3 generazioni, non sappiamo, in quello che vi chiamiamo il DNA. E allora dobbiamo tenere presente che quello che tu proponi è una misura tecnica e furba. C'è il rischio che diveniamo altro, oggettivamente, dopo essere altro nella considerazione della gente, e allora facciamoci fuori. E così dimostreremo perché la cosa ricomparirà come coniglio bianco in un altro modo. O lo trasferiamo a Di Pietro, no? O così tanto per... No, quando tu hai colto, mi hai fatto destare molta attenzione, episodio che avevo dimenticato, nel senso che non ha una presenza di queste ore, il passaggio dai 52 scioperi della sete a uno, devo un tantino suggerire una piccola mutazione semantica. Tu hai detto, quando Marco ci ha permesso, no, ha permesso, scusa? Sì, ma mi pare che c'era anche il concetto, quello. Beh, io l'ho fatto anche perché ho ritenuto che dopo tanti anni di riflessione per cui non abbiamo avuto il rischiare la morte invece che rischiare la vita, l'ho fatto probabilmente perché ho fatto fiducia appunto a questa crescita collettiva nostra. Quando per esempio mi sono permesso di mandare una lettera ai tibetani, diciamo indipendentisti, giovani, che sembrava volessero insistere fino alla morte, tra virgolette, contro i cinesi nello sciopero della sete. In quel momento ho riflettuto, sono stato contento, non so nemmeno se hanno smesso un qualche rapporto a quella osservazione che io facevo. Però, voglio dire, ci abbiamo allora pensato assieme, in modo sincrono, no? Noi e loro. Quindi è diverso, tant'è vero che quando lo abbiamo cominciato, sapevamo sapientemente che senza dichiararlo, perché questo non c'era nessuna necessità e nemmeno opportunità, ma nessuna necessità, nessuna contraddizione nel non rendere pubblico, che l'avremmo fatto per non più di 48 o 50 ore. È ancora, credo, qualcosa di sapienza, è qualcosa di responsabilità, di conoscenza, di esperienza come le esperienze sono, le esperienze o sono fatti interiori o non sono. E nella nostra crescita, io scrivo questo, è anche un salto di qualità sul piano della nostra politica economica, economico-sociale degli ultimi 4 anni, che per quel che mi riguarda, così, mi ha confermato in alcune mie intuizioni precedenti, che sicuramente erano un po' cresciute anche, non solo appunto come fatto mio privato della comunicazione, attraverso magari l'esempio del tentativo, no? L'esempio di una ricerca che era evidente. Ed è per questo che allora osserverei un'altra cosa, non è un caso. Se tu pensi alla nostra identità, devo dire, abolisci una caratteristica di qualsiasi identità e di qualsiasi persona, che è di carattere sociale. In questo, dal tuo intervento di Rosalba, ieri a quello di oggi, ti ascolto con contentezza, veramente, con molta attenzione. E il tuo accenno mi ha divertito seriamente a Fagioli, nel senso che ho visto un riflesso che potrei pensare essere soprattutto, no, o molto ideologico piuttosto che riflessivo. Io il fatto Fagioli, a parte, io non entro nel merito del perché, con le possibili retropensieri, eccetera. Abbiamo constatato un atto di generosità che è mancato, per esempio, e da solo forse avrebbe potuto farti raggiungere il 4%, da Gavino... ogni volta che per giorni è stato sollecitato e ha annunciato una presa di posizione a favore nostro, che invece Saviano, che e non lo ha fatto. Per me è solo dimostrazione di un... Come? Sì. Allora, dico... Oh, e che succede? Se no devo ribeccare... Marco, 10 minuti. Sì. Nel senso che c'è stato un atto che per noi era di generosità venuto da lui nel momento in cui probabilmente, creandogli qualche problema, ha deciso di prendere posizione dicendo, invitando al voto per noi anziché per Vendola o per altri ancora. Fatto che probabilmente è stato anche leggermente traumatico per la sua comunità. Ma a me interessa per un altro motivo, perché si sta smorzando anche nei cultori interiori l'altra grande conquista nostra, che è quello del dibattito sull'amore civile. Grande cosa. Dove sta? Bene, ritengo che la presenza anche fra di noi, distribuisco, come dire, patenti di ortodossia o di appartenenza al nostro etnos che aborro in quanto tale, no? Ma tale probabilmente da poter di nuovo riaccendere nel suo antipsichiatria e antifreudismo, accendere, direi, di nuovo la nostra attenzione creativa su, virgolette, l'amore civile. E a me pare proprio importante, perché poi c'è un punto comunque nella sua posizione che è quasi estrema, non credo estremista, nel difendere la persona come realtà sociale, la persona come la persona, non la vita, qualcosa di vito, la persona. L'individuo, la persona, appunto, con una contrapposizione ai natalismi che molto spesso vediamo dilagare da tutte le parti. Devo al nostro vaticanista, ma sto controllando perché non ho ancora trovato la riprova per aver avuto il tempo, una cosa preziosa. Io che sono stato, per esempio, considerato quasi l'anticristo in prospettiva, perché simpatico, eccetera, e la persona mi ha detto, una volta che gli telefonai, dico, ma sei proprio sicuro, non corrisponde a quello che sappiamo l'anticristo potrebbe avere come immagine. E lui ha detto, no, ma io volevo dire che tu sei simpatico con le cose che dici e allora può essere questo, in questo senso intendevo dirlo. E lì mi ha detto, dice, no, perché io sono restato traumatizzato da quando tu hai aperto la polemica sullo zigote. Non ho approfondito, ma siccome devo al vaticanista l'informazione, l'ha preso come tale, che c'è una differenza fra l'attenzione attuale prevalente e quella nel periodo Giovanni Paolo II, nel senso che lì era presente l'elemento feto e non l'elemento embrione, è di un'importanza enorme per tanti fatti. Ma chiudo questa parentesi perché finisco. Quindi quello che penso è che noi invece dobbiamo essere un po' coerenti con il nostro considerare la persona e la persona collettiva, è anche una storia di una cosa viva come la nostra storia, come le storie anche particolari. Sembra quasi che noi disponiamo da soli e non con i 740.000, nei quali uno può avere votato, come tu ricordavi, ma lo credo poco, perché mi sono ricordato di una cosa, che quando noi otteniamo 40.000 iscritti, noi lanciamo un messaggio. Se noi non riusciamo ad avere 10.000 iscritti, non mi ricordo quanto fosse, il disegno, la prospettiva rivoluzionante, enorme del transnazionale, non riusciremo a portarlo avanti. E poi per 10 giorni mi sono affannato a dire no, ma mi pare che tutte queste iscrizioni che arrivano erano tutte motivate per evitare la nostra morte, non per consentirci il futuro. E è continuata. E oggi è la stessa cosa il riflesso, ma non per timore necrofobo della morte, ma appunto per sentire parte della propria storia, della propria noi come testimoni dell'idea, della speranza, con le nostre due gambe. Cioè si dice che senza le gambe non camminano nemmeno le idee. Ed è in gran parte vero. Ecco, per questo chiedo scusa, ma mi è parso importante, come dire, garantire attenzione molta al tuo intervento, perché davvero lo ritengo prezioso. Grazie. Grazie Marco.